Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Sono le 10:08 minuti, buona domenica da Stefano Gallarini, inizia il riposo del guerriero. Voi chiaramente siete guerrieri perché noi non riposiamo mai, ma è meglio così. E voglio ricordarvi subito il gioco che vi fa portare a casa il catalogo della mostra Miró, poesia e luce, alle 11:30, catalogo della mostra e anche biglietto d'ingresso, la mostra è a Genova. E dovete cercare di associare il titolo di un'opera di Miró alla canzone che vi faccio ascoltare. È un cacciatore di sogni che scivola via sul nero velluto di notte. Devo dire che è veramente molto facile la risposta, eppure settimana scorsa non è riuscita ad arrivare. Spero che questa settimana sia invece così. Prenotatevi, il numero verde 800 24 00 24, si gioca dalle 11:35. Ma entriamo nel vivo della puntata di oggi. Allora, ci siamo domandati cosa significhi oggi cultura pop, perché questa parola che si sente, si usa, è una musica pop, però poi alla fine cosa significa pop? Io me lo continuo a domandare, ho varie risposte, ma vorrei sentirle anche da voi, a parte le risposte arrivano anche dai nostri ospiti che poi vi presenterò, però vorrei sapere anche da voi qualcosa. Cosa ritenete che sia pop oggi? Oppure che cosa pensate che in generale sia la cultura pop? Il numero per i messaggi 349-238-6666. E io, pensando al pop, così mi è venuto in mente di iniziare con questa canzone. E io, quando ho pensato al pop, mi è venuta in mente subito lei, Madonna, e poi Like a Virgin, perché ritengo che sia pop. Sei d'accordo, Tommaso Labranca? Buongiorno, buona domenica, ciao. Buongiorno, ciao. Sì, fino a un certo punto d'accordo, ecco. Perché forse se volevi proprio andare ancora sul pop, sapevo, cioè, sì. No, la Madonna più pop che esiste sì. È Material Girl. Ah, perché ecco, lì anche l'esaltazione dei consumi. Qui era pop, nel senso che lei ha fatto questo video a Venezia. Non so se te lo ricordi, no. Col leone che gira. Lei non ero ancora nato. Non esagerare, che eri già lì che ballavi. Lei era venuta in Italia, sì. Totalmente sconosciuta, è andata a Venezia, ha fatto questo video, lei in gondola. Era un modo per andare a Venezia. Era un modo come l'ultimo video. Per farsi pagare la vacanza. Esatto, no? L'ultimo l'ha fatto a Firenze invece. Quindi quando lei vuole farsi una vacanza, mi faccio un video. Giustamente. E comunque l'uso che faceva della gondola, di queste immagini, era pop, nel senso che ti veniva in mente la gondola che la zia teneva sul televisore, quella finta. Che tristezza. Perché era l'uso. Con le lampadine, con il LED. Sì, perché oggi con il LED. All'epoca con le lampadine, quelle dell'albero di Natale. Oggi LED. Ma esisterà? Hanno le gondole a LED? Sì, penso che adesso abbiano sostituito le lampadine del vecchio albero di Natale con il LED, immagino. Sono arrivati i cinesi anche nelle gondole di Venezia, immagino. Però il LED non ha lo stesso fascino. No, anche in generale, in generale, gondola di plastica. Beh, una gondola di plastica. È pop, secondo te? Assolutamente. Perché fa parte... Cos'è il pop? Ecco, perché stavo per arrivare a quello. Io lì voglio arrivare, perché nessuno l'ha capito. Posso leggerti cosa dice? Leggilo. Allora, lo Zingarelli dice pop... detto di genere artistico che per i suoi contenuti sociologici, culturali e di costume trova ampia diffusione specialmente fra i giovani. Beh, siamo d'accordo a metà. Ecco, anch'io sono d'accordo a metà. Ecco, Tommaso Labranca cosa dice? Allora, il pop è tutto quello che fa parte dell'immaginario che tocca le persone con meno preparazione. Che non è una definizione razzista questa qui. Nel senso che una cosa pop deve piacere a tutti, sì. Quindi non può essere troppo intelligente, troppo difficile, troppo elitaria e né di nicchia, altrimenti non è più pop. Per cui la gondola, sì. Che tutti conoscono, perché comunque Venezia la conoscono tutti, è la prima immagine che tu hai della città. Non hai l'immagine del canaletto, il canaletto è difficile. Direi proprio di esatto, sì. Canaletto è difficile, la gondola invece no. E per canaletto non intendevi un canale piccolino, no, ovviamente. No, intendevo il pittore, certo. Intendevo il pittore che comunque era pop anche lui. e poi ti dico brevemente perché. Quindi questa gondola ripresa, messa sul televisore, fra l'altro poi anche fittizia, perché tu vendi le vere gondole, sono tristi, sono nere, non sono ripese, certo dorate, non sono dorate, non hanno le luci, però fa parte di un immaginario pop, cioè popolare, non verificato, perché il pop non è mai verificato, in cui le gondole sono luminose, c'è sul gondoliere che canta in questo meraviglioso ambiente di laguna che ha un odoraccio terrificante, per cui tutto ti invita a pensare tranne che a una serata romantica. Questa gondola sull'immaginaria laguna profumata si muove tra mille luci, non esiste, ma esiste sui televisori, quando si metteva sul televisore, quando la zia metteva la riproduzione sul televisore. Sì. Ecco. La stessa cosa faceva Canaletto tanti anni fa. Canaletto faceva questi quadri bellissimi, fra l'altro, con riproduzioni di scorci di Venezia, che vendeva poi agli inglesi che venivano lì in visita. Come se fossero delle fotografie. Come se fossero ovviamente delle fotografie. Naturalmente Canaletto non vendeva un quadro a Venezia, perché io devo comprarmi lo scorcio, apro la finestra e lo certo vedo. E allora li vendeva a questi inglesi. Noi naturalmente non sappiamo, non abbiamo foto della Venezia del Settecento, ma sicuramente sarà stata molto diversa da come la rappresentava Canaletto, perché appunto dava un'immagine pop della città, in modo che anche chi era lontano, se la vedeva ricapitare nella fumosa Londra, diceva: ah, che meraviglia! E cioè, poi quello è rimasto nell'immaginario. Esatto. Insomma, Venezia ormai per tutti è così, Venezia al di là di quello di che sia, veramente davvero. 10:17, aggiornamenti sul traffico. Anche voi cosa ritenete che sia pop? 349-238-6666. Il riposo del guerriero. Ecco, mi scrivono con gli sms: pop vuol dire popolare. Sì, certo, arriva da popular in inglese. Ecco, sì, però sì, ma è diverso popolare da pop, perché il popolare noi pensiamo al folk, sì, quindi qualcosa che nasce dalla massa. Pop ormai è qualcosa che viene dato alla massa, che la massa acquisisce, quindi non è folclorico. Poi parlando per esempio di arte pop lo capisci, cioè tutta l'iconografia dell'arte pop non è certo folcloristica. E infatti ne parliamo. Luca Beatrice, ciao, buona domenica. Ciao, buona domenica a voi. Autore anche di un libro che è Pop, l'invenzione dell'artista come star, perché a un certo punto gli artisti hanno deciso di cercare di vendersi, no? Cosa succede? Hanno cercato di vendersi perché in questo momento, ma ormai direi dagli anni 60 sì, in poi, il mondo è cambiato, l'arte deve necessariamente passare attraverso i mass media, una volta era la radio, la televisione, la carta stampata ovviamente, adesso magari sono i social network, insomma, però è chiaro che l'arte non può pensare di rimanere lassù in una montagnola staccata dal mondo, ma deve comunicare, quindi deve utilizzare i sistemi della comunicazione di massa e il prodotto ovviamente si adegua. Quindi ci sono artisti che a un certo punto nella loro vita, sono all'inizio, vita artistica intendo dire, hanno cominciato a comportarsi come se fossero delle star del rock. Assolutamente, il primo è stato Salvador Dalì. Lui andava alle mostre inaugurazioni, non si sapeva come si sarebbe vestito, quale poteva essere il suo codazzo. Sapete che, non so, frequentava Alice Cooper, Lou Reed, e poi è diventato così il Pigmalione di Amanda Lear. Lì, tra l'altro, insomma, da questo punto di vista delle colpe ce le ha, perché l'ha anche così spinta a dipingere. Non so se voi avete mai visto i quadri di Amanda Lear, ma sono terrificati. No, però ho visto la faccia di Tommaso Labranca adesso, non so se ne ha uno a casa sua. No, no, ho presente. Non lo so perché l'ho visto. No, non è vero, Luca, ho presente il ritratto che fece di Wojtyła, che poi fu l'inizio della fine del pontefice, fra l'altro. Infatti, se ci sarà la fine del mondo, probabilmente è per colpa di qualcosa. Vabbè, ma l'amore è potente, scusami. L'amore è potente, cioè, è vero. E poi Andy Warhol che ha proprio inventato la figura dell'artista come star, perché mentre Salvador Dalì era un modello irripetibile, cioè nessun altro si sarebbe potuto conciare come lui evidentemente, Warhol no, ha inventato uno stile, una moda, un linguaggio che ancora adesso insomma ci portiamo dietro. Ecco, in questo senso la pop art prende quelli che sono gli oggetti popolari, cioè quelli più consumati e più conosciuti, e li trasforma in arte. Però forse la pop art in sé non è pop. Non so se mi sono spiegato. Ma il mio gioco di parole. Sì, intanto guarda, io penso che pop, un po' come surrealismo, è l'unica avanguardia storica che non ha finito il suo corso, nel senso che ancora si sta discutendo di queste cose, mentre di altre, insomma, il tempo a un certo punto le ha fermate. Quindi è una parola che secondo me ha così subito una specie di mutazione genetica, no? E quindi pop è diventato sì, soprattutto l'oggetto, il design pop, ma poi c'è la musica pop, c'è la moda pop, insomma, credo che i cambiamenti siano continuamente così in corso, mentre se parliamo di arte pop probabilmente dobbiamo riferirci semplicemente agli anni 60, nel resto dei linguaggi creativi le mutazioni si vedono continuamente. Ecco Luca, secondo te l'artista oggi deve essere pop per forza, in questo senso deve sempre atteggiarsi, lo dico in senso buono, come una rock star, quindi vendersi da un punto di vista del mercato, oppure funziona ancora l'artista alla Tommaso La Branca, quello che sta un po' più... Ma io non sono un artista? No, come no? Tu sei un artista, hai fatto di tutto, cioè, scrivi, reciti anche, hai mai recitato Tommaso tu? Sì, una volta in terza elementare, una recita natalizia, bellissima. Oppure dicevo come Tommaso La Branca, che sta più invece nella sua nicchia d'artista. Ma a parte che Tommaso La Branca ha scritto tra l'altro un fondamentale saggio, Andy Warhol era un coatto, per cui aveva capito tutto, ma detto questo, io penso che al di là del prodotto finale l'artista oggi deve stare nel mondo. Pensare di autorecludersi, essere un po' misantropi, magari non so, con le unghie sporche, la barba lunga, incolta, eccetera, eccetera, che fa effettivamente un po' vintage, però tu pensa che questa moda del vintage è diventata a sua volta pop, perché insomma in qualsiasi negozio un po' figo trovi questa roba qui, quindi c'è un cortocircuito, ecco. Luca, parliamo dei nemici del pop, perché io ho identificato un nemico ben preciso nel pop, in Italia, ed era Pierpaolo Pasolini. Cioè, Pasolini è l'uomo che non ha permesso al pop di crescere in Italia, perché lui odiava, che so, tutto il gruppo di Piazza del Popolo, era nemico di Schifano e così via. Perché? Perché diceva che il pop comunque non aveva dei fini precisi, come dialettica, non era antipolitico, era troppo dendistico ed era decadente e borghese, come al solito. Oggi purtroppo viviamo ancora di questa eredità negativa, io la trovo negativa, cioè che devi sempre fare qualcosa di politico, di forte. Se no è banale, o dici, se no non ha... Sì, non sei così, sei non banale, ho... non sei politico, sei superficiale. Superficiale, ecco, hai trovato l'aggettivo che cercavo. Sempre, Luca, io trovo che poi i discendenti di Pasolini hanno distrutto anche Warhol, perché tu vai da qualche ragazzotto uscito da Brera e dice no, ma perché Warhol ha questi contenuti che non ha assolutamente, ma che qualche professore ancora con l'eschimo gli ha messo in testa. È vero, Luca? Sì, dunque io penso due cose. La prima è che penso che Pasolini abbia sbagliato tutte le previsioni, cioè non ne abbia presa una. Fa parte di quegli intellettuali così un po' visionari che avevano sempre necessità di dire la loro su qualsiasi cosa. Si fosse limitato a scrivere poesie, probabilmente oggi ne staremmo parlando meglio. Ma al di là di questa, che sembra una velata neanche troppo polemica, io credo che invece Warhol si è preso una grande rivincita. Insomma, Warhol è l'artista che ha praticamente inventato l'arte contemporanea. E sai, i ragazzotti che escono dalle accademie sono spinti, magari, certo, come dici tu, dai professori con l'eschimo, però se tu consideri che Andy Warhol, oltre che dipingere, fare il pittore di corte della fine del XX secolo, è stato anche quello che ha teorizzato l'invisibilità dell'opera d'arte, ovvero ci sono delle cose tipo Sleep Empire, i suoi film più famosi, che tutti quanti citano ma nessuno ha mai visto. L'arte si basa sul mito di se stessa, a seconda di come io la racconto così funziona, ma in vederla non è così importante. Ecco, un po' come succedeva per le gondole di Venezia oppure per i quadri del Canaletto, come diceva prima Tommaso. Luca Beatrice, io ti ringrazio molto, ricordo il tuo libro Pop, l'invenzione dell'artista come star, edito da Rizzoli. Buona domenica Luca, grazie. Grazie a voi. Ecco, la conversazione mi piaceva molto, avrei così continuato, per solo che abbiamo anche altri ospiti. Sono i benvenuti. D'altronde poi volevo appunto parlare con Luca e Beatrice di come bisogna saper fare il pop, altrimenti fai delle figuracce. Brevemente. Sì. Allora, dopo anni appunto di queste pasolinate, devi essere politico, pesante, forte, cosa succede? Che la sinistra si accorge che esiste il pop, e qua, la settimana scorsa viene fuori con questa immagine terrificante, i Magnifici 5, esatto, e il mondo ride perché non sono capaci di fare il pop, e quando lo fanno, fanno delle boiate. No, scusa, sorrido, perché è un'immagine che discutere, bisogna chiaramente. Essere capaci di fare il pop. Io l'ho pubblicata anche su Facebook con scritto no comment, nel senso che poi non si può commentare, poi sono d'accordo con te, però è interessante la visione, cioè voglio arrivare a tutti, voglio essere pop, è troppo tardi, così. Troppo tardi, sono passati 50 anni, buttati via proprio. Allora Giuseppe scrive: in Italia l'unica cosa pop è la classe politica, ma ne parleremo, perché esiste anche la politica pop, anzi forse oggi la politica è pop e basta, non non so, deve essere così. Ormai dagli anni Ottanta la politica è pop, da quando i politici andavano a cantare dalla Carrà, non so se ti ricordi, c'era la Carrà invitava i politici e questi cantavano, qualcuno accennava anche passi di danza, poi arrivò Tangentopoli e grazie al cielo sparirono tutti. Senti, tu avevi, abbiamo ancora 2 minuti prima della pubblicità, sì. E non so se volevi... cominciare. Dici che basta? No, non so solo ricominciare il tuo discorso prendendo come esempio gli spunti musicali che ci hai Va bene, dato. Allora sentite il primo spunto musicale. In radio c'è un pulcino. In radio c'è un pulcino. E il pulcino Pio. E il pulcino Pio. E il pulcino Pio. E il pulcino Pio. Ecco, direi di fermarci qui, no? Ecco, questo pezzo è stato tanto ascoltato quanto vessato. Non so perché. Ascoltate il secondo pezzo musicale. Allora, questo è un famoso Lied di Schubert che si chiama Die Forelle, da cui lui trasse poi anche, non so se prima il Lied o prima una composizione invece cameristica, la Trotta si chiama. Quindi in tutti e due i casi ci sono degli animali. Se tu provi a cantare il Pulcino Pio sulla musica della Trotta riesci perfettamente, ma quello che voglio dire è che si scandalizzano dicendo che il Pulcino Pio è una cosa orrenda. Non è vero, è il Lied di oggi. Schubert aveva composto questo Lied come uno dei tanti, lui ne ha composti veramente tanti, sì. Centinaia, perché venissero suonati in queste osterie fuori Vienna. Cioè non diceva sto facendo cultura, la musica classica. Noi oggi sto facendo pop sto dell'epoca. Facendo pop, faceva pop, esatto. Non c'è quello che voglio dimostrare, sì. È che non c'è differenza tra Schubert e il Pulcino Pio, perché vengono composte con lo stesso intento, cioè divertire la gente. Lui voleva divertire il suo gruppo di amici nella Stube fuori Vienna, e invece questi qui volevano divertire il popolo dell'estate. E perché scandalizzarci del Pulcino Pio? Io lo vorrei difendere veramente. Ecco, la mia domanda è: all'epoca con Schubert non si scandalizzavano affatto? O sì? Beh, insomma, Schubert ha avuto una sfortuna, nascere musicalmente appena dopo Beethoven, che era uno che se la tirava tantissimo, si credeva veramente il padre eterno, poverino, poi ha fatto anche delle cose grece, capiamoci, però non aveva senso l'umorismo, poi poverino aveva dei disturbi, la colite, giuro, Beethoven soffriva di colite, girava cercando continuamente un bagno, ha fatto una aveva vita terrificante, lui, ma no, le aveva tutte, per cui la sua drammaticità, e Schubert non ce la faceva a misurarsi con questa drammaticità, era più di nicchia, era sì. Più interiorizzato, e amava stare appunto con gli amici ai quali dedicava questi meravigliosi libri. E diceva in radio c'è un pulcino. Ecco, allora oggi cos'è per voi pop? Siete d'accordo su quello che dice Tommaso? Io personalmente sì, ma non perché sei qua ospite, ma perché proprio ti sto ascoltando molto volentieri, perché sono assolutamente concorde con te anche per quello. 349 238 6666. Adesso leggo i vostri sms, alcuni sono lunghissimi per cui mi prenderò tutto lo spazio della pubblicità per poterli leggere. Allora, c'è un lungo messaggio che insomma dice anche Shakespeare all'epoca era pop, no? Perché, ma sì. È vero, assolutamente, perché le commedie le andava a vedere il popolo, non era come a Milano oggi, faccio sempre il caso di Milano, sì, dove a teatro vanno solo le sciure chic che fingono di capire, questi che si rotolano per terra. Tu andavi al Globe, stavi lì giornate intere, mangiavi, cioè facevi di tutto, rispondevi, parlavi con gli attori, sì. È un po' sceneggiata napoletana, è vero, e poi Shakespeare prendeva lo spunto da materiale popolare. Poi dopo, naturalmente, sì, le cose vengono stratificate e noi tutto ciò che fa parte del passato diventa colto, ma non solo del passato. C'è un caso che io trovo terrificante, io vorrei fondare un'associazione che si chiama Salviamo Fabrizio De André, perché c'è questo tentativo di depopizzare Fabrizio De André, cioè di fargli dire cose che lui non intendeva dire, di raccontare cose che lui non ha mai fatto e soprattutto di venerarlo. Cioè, perché se pop non può essere venerato, funziona così. Per un certo tipo di pubblico non preparato, perché poi alla fine sono questi i veri non preparati, quelli che dicono, siccome dicono che De André è colto ed è difficile, allora devo buttarmi. Poi non capiscono assolutamente niente di quello che sta dicendo. Capisci? Quelli che ti traducono Croisa de Mar con Croce di Mare, invece vuol dire Sentiero di Montagna. Però è quel tipo di pubblico che De André non si merita. Come non si merita un pubblico simile Dario Fo. Dario Fo è l'uomo più pop che esista. È molto, molto popolare, ma sotto tutti i punti di vista. Però poi trovi appunto questo pubblico di studentelli, di signore con la fisima culturale che te lo trasformano in qualcos'altro. E fortunatamente lui ne ride. Che poi deve arrivare anche dall'artista. Purtroppo De André non lo può fare più. Tornasse in vita, guarda, prenderebbe un bastone e comincerebbe a picchiare. A proposito, hai citato Pasolini prima, e Gino scrive: Pasolini invece ha profetizzato l'egemonia della TV. Beh, sì, l'egemonia della TV era stata già egemonizzata in America già dagli anni 40 e 50, perché era nata molto prima. Pasolini ha anche lavorato per la televisione, fra l'altro, poi facendo anche delle cose molto, molto belle, fra l'altro. Però ha detto una cosa che avevano già detto gli altri, e per il resto poi non è che io ce l'ho con Pasolini, no, veramente, penso, è no. Troppo, anche lui è un altro che defunto è troppo esaltato, cioè ogni anno si ricorda all'inizio di novembre il fatto che Pasolini tot anni fa è morto. Quest'anno per esempio sono caduti i 40 anni della morte di Dino Buzzati, quasi passati sotto silenzio perché non si sa. Quindi tu vedi queste differenze e dici perché? Evidentemente perché c'è qualcuno che vuole spingere certe cose piuttosto che considera, altre. O che considera più alto, più culturale, ma più sai, intellettuale questo parlare è di un quello problema. Piuttosto guarda, che ma in qualunque campo, un brevissimo esempio ancora. Io ho litigato con un disc jockey che tempo fa in un convegno sulla musica elettronica, perché avevo citato Madonna e lui aveva fatto delle facce schifate. E lui in confronto, cioè ascoltava dei gruppetti, sai, questi mezzi fumati che suonano con l'organo Bontempi, e adesso scusa, tu ascolti gente che suona il citofono, però gli dai poi quest'aura fintamente culturale, parli di cose, di paesaggi dell'anima, ma non è vero, cioè, sono due che suonano due tasti, punto e basta, non stiamo parlando di Schopenhauer, di Kunellis, faccio dei nomi difficili adesso, capisci, non stiamo parlando di stocastica musicale di Xenakis, per esempio. No, e invece lui era convinto che Madonna, siccome il pop era deleteria, invece queste cose che lui ascoltava, e poi fra l'altro in settimana cambiava, perché il gruppo di settimana scorsa oggi già non andava più bene, sì. E quindi ho avuto anche questa piccola lite. Lucrezia Ercoli, buona domenica. Buona domenica, salve. Ciao, io faccio un po' fatica perché continuo a sorridere mentre parla la Branca, ma perché mi fa proprio ridere, lo ascolto perché molto faccio volentieri. Le no, perché dovete anche vederlo, no? Perché esatto, sta recitando, lui dice che ha recitato quando aveva 3 anni o 6. Terza elementare. Secondo me lo fa tutti i giorni, ma nel senso buono, perché hai una bella espressività. Lucrezia, allora parliamo della pop-sofia, perché la filosofia è una di quelle materie che a volte risulta non postiche, entrano difficilmente, e allora voi avete pensato di renderle pop per essere interessanti. Sì, pop Sofia sembra un termine semplice perché unisce questi due opposti, il pop di cui avete parlato finora e la filosofia, questa disciplina ieratica, accademica, rinchiusa nelle università. Io credo però che questa tensione che si crea tra questi due opposti riesca a rompere quei pregiudizi di cui avete parlato finora. Cioè il pregiudizio contro il pop, contro la cultura pop intesa come istupidimento di massa, ecco, il post Pasolini, il pop inteso come qualcosa di deleterio che riesce soltanto a intervenire con una cattiva educazione per le nuove generazioni. E dall'altro il pregiudizio invece contro la filosofia, intesa come la classica disciplina che riesce a fare grandi discorsi sui massimi sistemi del passato, ma non riesce assolutamente ad interagire con il contemporaneo, con la cultura di massa, con la quotidianità, insomma con il nostro tempo. Ecco, la pop Sofia cerca proprio di capovolgere radicalmente questi due pregiudizi. Quindi da un lato la cultura di massa, la cultura pop diventa l'oggetto privilegiato di interrogazione del filosofo. Beh, se questa cosa che chiamiamo pop circola nello spazio pubblico, ecco, la filosofia deve assolutamente interessarsene, deve interrogarla, deve capire che messaggi veicola, anzi deve farsi contaminare dal pop. Anche la filosofia può diventare un oggetto pop di massa. E dall'altro la filosofia veramente si modifica, si sporca, anche si imbarbarisce, ma ritorna ad essere in realtà quello che è sempre stata fin dall'origine, cioè qualcosa che ha a che fare con la quotidianità di tutti i giorni, con la polis, con la vita di ciascuno di noi. Ecco, la pop Sofia, se volessimo darne una definizione, è una sfida culturale che riesce, o forse, insomma, questa è la nostra presunzione, riesce ad essere una cura contro questa malattia culturale snob e intellettualistica che secondo me ha inaridito la cultura italiana minimo degli ultimi 30 anni. Ecco, io vedevo Tommaso Labranca annuire, ecco. Sì, stavo annuendo, sì. Anche perché ho avuto appena qualche giorno fa un incontro con una ragazza che era stata invitata a Pop Sofia, che era Valentina Nappi. Sì. Ecco, sì. Valentina Nappi è una giovanissima, 22 anni, porno star, anzi sì. Attrice porno, sì. Porno star lo si diventa col tempo, attrice porno, la quale quando gli ho fatto, è stata ospite in un programma che sto facendo adesso, quando le ho fatto una precisa domanda se era pop, si è inalberata, ecco, dicendo che lei non sì. era assolutamente pop. No. Odia il pop, Valentina Nappi. Sì, sì, ma poi se vai sul suo sito vedi fare cose che Karin Schubert e Mona Pozzi facevano con molta più umiltà, sì. Ecco, e quindi non mi viene a dire che fai grande filosofia. Cioè, ma più lei pop è molto del porno. Snob, molto snob, Valentina Nappi. Ma poco pop. Più, del, più pop del porno penso non ci sia nulla quasi alla fine. Sì, perché... no, noi abbiamo creato veramente scandali, polemiche, critiche da ogni dove, perché ovviamente parlare di pornografia e di filosofia nella stessa serata ha creato uno scandalo incredibile, uno sconvolgimento del pubblico. Ma in realtà sono venute fuori anche con Valentina Nappi, malgrado il suo ritrarsi iniziale, delle cose molto interessanti che ci hanno, insomma, svelato un fenomeno che si frequenta veramente in modo di massa, ma in realtà nessuno ne parla perché, insomma, è un po' una vergogna nazionale. Quindi cioè... in realtà è stato molto più interessante di quello che può sembrare, anche con Valentina che non vuole mai parlare di sé, di pop, perché rifiuta qualsiasi accostamento anche ad altre pornostar famose degli ultimi anni. Vabbè, anche lì, però, vabbè. Sì, ma non c'è un rischio, scusa se faccio questa domanda, sì, no, c'è, no, c'è il rischio che, e soprattutto in Italia, se un filosofo comincia a essere pop, quindi deve anche magari un po' rendere accessibile la ecco, sua materia. Ecco, scusami, sì. Adesso poi ti faccio finire la domanda, però ad esempio un messaggio di Roberto dice la pop-sofia De Crescenzo la faceva 30 anni fa, per esempio. Ecco, no? Ecco, però appunto in questo caso, vedi, si trovano di fronte quelli che subito stigmatizzano, perché in Italia non puoi essere che neanche un divulgatore, mentre nella cultura anglosassone i divulgatori sono la base. Sì. Ecco, in Italia no, devi arrivare già imparato, come si dice, guai se ti fanno la storia di, devi, già sai tutto e quindi già puoi esprimere dei grossi concetti, quindi vedo che è una bella fatica fare filosofia in chiave pop. No, assolutamente, anche perché in realtà la pop filosofia non l'abbiamo inventata noi, in Europa circola da anni proprio questo stesso termine e non so, un filosofo come Zizek, uno dei filosofi contemporanei più famosi, è pop da sempre praticamente. In Italia c'è ancora questo pregiudizio per cui veniamo criticati da ogni parte, soprattutto dall'Accademia, che è contro questa specie di quello che considera un imbarbarimento della cultura. In realtà io credo che anche il successo di Pubblico e il volersi veramente piegare al pop di alcuni filosofi che siamo riusciti ad intercettare, credo che rappresenti la necessità della pop-sofia. La pop-sofia può salvarci se la filosofia non ha più niente da dire sul contemporaneo, solo questa torsione verso il pop può dirci qualcosa di nuovo, altrimenti rimaniamo in una palude culturale che non cresce, non produce creatività e novità. Grazie Lucrezia Ercoli, io vi ricordo grazie anche il sito che è popsofia.it per avere tutte le informazioni, perché c'è anche il Festival del Contemporaneo ogni anno. Grazie ancora. Tommaso, grazie, arrivano un po' di messaggi, io ho tanti ospiti, ce li abbiamo insieme, ma volevo anche leggerli perché è giusto che tu risponda. Intanto i genovesi si sono molto lamentati dell'autotraduzione. Perché ecco, io ho avuto una traduzione da un genovese, mi ha detto significa sentiero di montagna. No, invece la Creusa, perché neanche io non so la pronuncia, dovete perdonarmi, è vero. Parliamo di una lingua che non ci appartiene. In Liguria non è sentiero di montagna, ma una stradina pedonale fra due muretti a secco. Quindi c'è anche il termine tecnico, due muretti a secco. Due muretti a secco, sai, che fa tanto montaliano, sì. Montaliano. Quindi quello è. Chiedo scusa perché mi era stata riportata così la traduzione, non essendo genovese. Poi, scusa, sì, no, come senza sentiero di montagna, ostradina, sì, siamo alla lì. Fine, no, ma immagine potrebbe, ma gli essere... ascoltatori sai come sono, ma io amo precisi. La precisione, è vero, anche perché ci insegna, cioè ci dice qualcosa che non sapevamo fino a se nessuno lo dice, attenti, cioè. Esatto, e questo mi fa solo piacere. Allora, invece, qualcuno che non si firma e dice la differenza è che Pasolini è stato ammazzato, ma si parlava d'altro, cioè del ricordo, quando hai detto 40 anni dalla morte, hai capito? Però non è quello l'oggetto del no, contendere. Non è quello l'oggetto del contendere. Ecco, è il Nurant che... finale potevi risparmiartelo perché non lo capisco. No, Nurant è la sua firma, evidentemente. Ecco. È lui il Nurant. No, che non capisco. Cioè, so benissimo perché... che Pasolini è stato ammazzato perché io sono vecchio. Sì. Sono vecchio e c'ero e quindi ho assistito anche alla notizia data dal TG quella sera. E conoscevo già Pasolini prima perché ce lo facevano leggere alle medie. Quindi si vuol dare dell'ignorant, si guarda allo specchio e si dà dell'ignorant. No, ma anche perché poi, ma perché a che pro? Cioè, perché pop. Perché pop, è pop, anche quello, va bene. Gli aggiornamenti sul traffico. Allora, Tommaso, moltissimi messaggi, veramente tanti, citano la politica pop ed è per questo che c'è Gianpietro Mazzoleni. Buona domenica. Buona domenica a lei e agli ascoltatori. Grazie, grazie professore. Lei insegna comunicazione politica e sociologia della comunicazione all'Università degli Studi di Milano, dirige anche una rivista chiamata Comunicazione Politica con Poll. Però qualche anno fa aveva pubblicato un libro edito dal Mulino intitolato proprio Politica Pop, perché la politica da quanto tempo è pop la politica, professore? Ma a essere sinceri, da sempre. Ecco. Da sempre. Immaginavo. La politica si è sposata con la cultura popolare, ovviamente a seconda dei gusti del tempo sono cambiate molte cose nei secoli, negli anni, e con l'arrivo dei mass media, in particolare il cinema, la radio, la televisione, la musica, la politica spesso si è sposata con i prodotti della cultura popolare, quindi diciamo che non c'è nulla di nuovo sotto il sole, che però negli ultimi 30-40 anni il fenomeno è diventato molto molto evidente. Ecco, però io ricordo, non so, 30 anni fa, le tribune politiche. Ecco, si parlava di politica con la tribuna politica in televisione. Oggi sì. Invece è tutta una tribuna politica, ma in un modo completamente diverso. Infatti, perché le tribune politiche del Jacobelli non erano molto pop, ed erano molto noiose, per cui con l'arrivo, e non è un caso, della televisione commerciale si è cercato anche di rendere un po' più, come dire, commerciale, simpatico, spendibile, godibile anche la politica. Mi riferisco per esempio a Portobello di Tortora, sono stati i primi segnali di una popolarizzazione della politica, che era attesa evidentemente e quindi è stata anche accolta con simpatia, non da tutti, ma insomma dall'audience di sicuro sì. Ecco, sì, la butto, poi faccio fare la domanda, ma mi viene in mente una cosa: il fatto di aver reso la politica così pop e quindi molti politici sono in televisione costantemente, non rischia poi di banalizzare il pensiero? Sì, o questo, spostarlo, ecco. Sì, questo è un rischio, certamente, infatti da parte dei critici soprattutto sia della cultura pop sia anche della politica, che un po' si prostituisce, uso questo termine, sì, senza offendere nessuno, con la cultura popolare, con il divertimento, l'intrattenimento, la satira, eccetera, senz'altro c'è questa preoccupazione, però possiamo anche dire che non bisogna buttare con l'acqua sporca anche il bambino, nel senso che attraverso queste forme simpatiche e anche godibili, anche divertenti di rappresentare la politica, molti cittadini, molti elettori che non guardano i telegiornali, non leggono i giornali seri, che non sono molto informati sulla politica, perlomeno intercettano attraverso queste forme cinematografiche, musicali, televisive e quant'altro, un messaggio politico che almeno li tiene in contatto con il dibattito politico e anche con una eventuale, magari virtuale, partecipazione politica, ma sì, sempre partecipazione. Anche sono gli indivanados, come Nicoletti li aveva chiamati. Ecco, no, volevo domandare al professore una cosa, cioè, ai tempi della terrificante tribuna politica, sì, di Iadia Iacobelli, però c'era tutta un'altra parte che era quella dei manifesti elettorali, che già negli anni 50 erano molto pop, erano molto popolari. Oggi soltanto la Lega li fa così in maniera viscerale, sì, di pancia. Edoardo Novelli, uno studioso di Roma 3, ha raccolto molti di questi manifesti, soprattutto negli anni del 48, del 52, 53, quando la politica era sentita popolarmente ed era proprio parte della battaglia quotidiana democristiana e contro comunisti, eccetera. Se andiamo a vedere i manifesti di quel tempo, vediamo già che i riferimenti erano a elementi e fattori che erano esterni alla politica ed erano nella vita quotidiana di ognuno. Grazie Gianpietro Mazzoleni, grazie professore, vi ricordo Politica Pop e anche Comunicazione Politica, che è la rivista che dirige. Grazie ancora, buona domenica. Grazie a voi. C'è molto da dire, lo so, è che abbiamo tanti ospiti, Tommaso, quindi... Capito? Io so che sì. Tu sei curioso, vorresti fare mille domande in più, ti vedo. Lo so, no, volevo sapere cosa ne pensava di Matteo Renzi che cerca di rifare Obama, cioè queste cose che ti insomma, conquistano. Di Obama parleremo anche più tardi, con il nostro Senti chi parla. E io volevo anche ospitare Andrea Benedetto, buona domenica. Buona domenica, buongiorno. Che ha scritto un libro intitolato Come risparmiare 333 euro in più al mese. Adesso devo capire questo calcolo, questo 333 periodico, come secondo me poi 333,3333 periodico. E perché esiste anche l'economia popolare, la pop economy. Sì, risparmiare 333 euro, che poi è un po' sì, diciamo, il 10% di quello che si spende in una famiglia media italiana, è un'attività assolutamente pop. Nel senso che la pop economy in italiano la potremmo tradurre con un forse meno accattivante economia collaborativa, ma in realtà è una declinazione nuova di un fenomeno consueto quando un'economia attraversa una fase di crisi come questa. Cioè, cosa succede? Succede che lo scambio, il prestito, il baratto, la condivisione guadagnano spazio a scapito di una logica di consumo basata solo sul possesso e sulle transazioni in denaro. Ecco, quindi diciamo che è un modo di pensare, di consumare, che ormai viene da tempo, che l'Italia ha un po' importato, perché noi su queste cose arriviamo sempre un po' dopo. A noi piace avere, no? Possedere, come italiani in generale, e al quale è stato dato così un nome nuovo, no? Sì, per fare uno dei tanti esempi pop sì. possibili, per un automobilista, ecco, se prima la prospettiva era quella di comprare un'automobile e null'altro, adesso l'automobilista sa che la vettura la può prendere in affitto quando gli serve, con il car sharing, oppure sì. può condividerla con un collega per andare a lavorare, no? Il famoso carpooling, magari ancora aderire a una midfield centrale, che sono questi servizi che coordinano le offerte, le domande di passaggi. Ecco, è vero però che queste realtà sono legate strettamente a grandi città, perché chi vive già vicino alle grandi città o addirittura nei paesi, proprio tutto questo non è possibile. Sì, però c'è un protagonista interessante sì? Della pop economy, che è la vera novità in realtà della pop economy, cioè internet, quindi asseconda queste possibilità a una logica che non è più ristretta a un determinato ambito geografico. La parola chiave qua è condividere, share, no? E sì. quindi è una parola che va a nozze con il web 2.0. Ecco, Andrea, l'ultima domanda che ti faccio è un minuto per rispondere questa. Secondo te ci sarà sempre più pop economy? Cioè si andrà sempre più verso quel modo di pensare, oppure è una moda? Ma io lo spero, perché la pop economy ha un effetto collaterale, per così dire, virtuoso, che è la sua profonda vocazione, per così dire, sociale, perché se io aderisco a un gruppo d'acquisto solidale oppure partecipo a uno swap party, è chiaro che devo intessere delle relazioni. Quindi pensiamo al couchsurfing, no? Questo modo di andare in vacanza che moltissime persone è diventato il sistema principale per viaggiare. Sì. E quindi io metto a disposizione il mio divano di casa e in cambio so che posso approfittare del divano di qualcuno che fa parte della community nel mondo. Ed è un modo di viaggiare, di vedere il mondo che ha uno spirito molto diverso rispetto a quello di chi resta confinato in un villaggio turistico o tra l'albergo e il ristorante. Ecco, vedremo cosa succede. 40 secondi per te, Tommaso. Tu ospiteresti qualcuno sul tuo divano per una vacanza? Me ne guardo bene, però quello che voglio dire è che tu puoi risparmiare 333 euro, ma prima sì. devi fare un investimento importante, un corso d'inglese, perché qui fra webcast surfing devi proprio entrare in un'altra prospettiva. In effetti è anche così, è vero, però insomma anche la rete in questo senso aiuta a capire i termini inglesi, basta che non vengano tradotti come prima abbiamo tradotto male. Ma quello il genovese è un'altra cosa. Sì, vabbè, però difficile. È sempre un altro modo di dire le cose. Grazie Andrea Benedetto, buona domenica, grazie. Buona domenica a voi, arrivederci. Come risparmiare 333 euro in più al mese, edito da Dalai. Tra pochissimo, dopo il GR, parleremo ancora di cultura pop, 349-238-6666, con un argomento che a te sta molto a cuore, Tommaso, che è la musica. Ancora buona domenica da Stefano Gallarini. Prosegue il riposo del guerriero qua su Radio 24. Stiamo parlando di pop, di cultura pop in generale. Oggi che cos'è la cultura pop? Siccome c'è Tommaso Labranca, ospite, ancora buona domenica anche a te Tommaso. Ma è ancora domenica? Sì. Sono qui, mi sembra, da una vita. Pensavo fosse già lunedì. Potevo andare avanti, guarda, comunque, viste le cose da dire. È stato citato Pasolini e poi si è entrati un po', allora io ho letto quel messaggio e la stessa persona che continua a non firmarsi però dice: allora è peggio ancora, se la sapete fate finta che non conti, come fate a dire che come è morto Pasolini non è importante? Intanto un altro messaggio dice: anche Tobagi l'hanno ammazzato, nessuno ne parla. Ecco, vabbè, questa è una risposta a questo messaggio. La sua vita agli omosessuali era pop ed è morto anche per quello. Io non credo che fosse pop affatto la sua vita agli omosessuali. Allora, perché... se ho citato Pasolini non è perché stamattina mi sono alzato e ho detto Pasolini. Immagino. Allora, sto leggendo un bellissimo libro che è appena uscito, che è una biografia di Mario Schifano, in cui naturalmente si parla della Roma di quel periodo. Si parla del gruppo, di questi artisti di Piazza del Popolo che conducevano una vita pop, e poi si parla naturalmente di Moravia e di Pasolini che erano contrari al pop, perché lo consideravano frivolo, lo consideravano appunto senza delle finalità importanti. Per quello l'abbiamo citato. Esatto, ecco, per questo motivo. Sì. Pasolini non aveva una vita pop, nel senso che non aveva una vita pop, cioè non era Vladimir Luxuria, che invece è pop. Sì. E viveva in un certo periodo, quando lo incontravano da vivo cambiavano marciapiede. Andreotti disse: era imbarazzante stringere la mano a Pasolini sapendo che la sera poi sarebbe andato a cercarsi i giovani benzinai. Dopo la morte sono diventati tutti fan e tutti naturalmente hanno tirato Pasolini dalla loro parte, dalla destra alla sinistra ai cattolici. Per cui, allora, se questo signore ama veramente Pasolini, chiama, che so, Walter City, che è un grande esperto, grande scrittore, grande esperto di Pasolini, e si fa raccontare le cose come stanno. A proposito di esperti, che qualcuno vuol mandare a quel paese, mi fa piacere che i messaggi così critici non sono mai firmati, io non riesco mai a capire perché. Mettete anche un nome falso, però. Luisa. Va bene. Portobello non parlava mai di politica, era sulla TV di Stato e precede la TV commerciale. Allora, Portobello parlava di politica nel senso che Enzo Tortora era un conduttore molto intelligente, molto colto e preparato, e infilava sempre delle battute anche pesanti sugli scandali del momento. Era il momento dello scandalo Lockheed, non passava puntata in cui lui non citasse questa cosa, e quindi si faceva politica anche in quel modo. Se non ci fosse stato Portobello non avremmo avuto Funari, che ha fatto politica sulle orme, diciamo, di quella trasmissione. Era sulle televisioni di Stato, ma nel momento in cui nasceva la TV commerciale, quindi già la RAI stava contrastando questa nascita della TV commerciale, per cui faceva politica Enzo Tortora, molto più politica forse di quella che fa, a parità di situazioni, Santoro oggi, perché oggi è molto più facile fare un programma da Santoro, ecco. Invece far passare certe cose allora sulla TV di Stato era molto più difficile, se non è politica questa. Tommaso, allora, parliamo di musica. Oh, cos'è? Cosa non ti faccio rilassare? Perché sei giustamente piccato nel modo giusto. Bisogna essere. Perché allora, se tu ti fai, tu e la tua redattrice e Giorgio e tutti, vi lavorate per avere degli ospiti di un certo livello come il professore che avete avuto prima, non puoi mandare un sms in cui mandi a quel paese una persona che ne sa più di tutti noi messi insieme. Perché se parla è perché lo sa. Sai che sono concorde. Allora, parliamo di musica, perché deve uscire fra l'altro un dizionario dedicato al mondo del pop. Ecco, poi, scusami, prima di questo, pop rock. Ma scusa, pop, il rock è proprio un genere musicale, il pop non è un genere musicale, o mi sbaglio? Non si è mai capito. Allora, il pop, allora, cos'è il pop nel campo musicale? È la musica che va di più, la musica che vende di più? Non è detto. La musica che piace di più, quella più semplice, non è così. Anche perché ciò che era pop, e quindi era considerato male, perché gli anni 70 sono stati grandi nemici del pop, ti ricordi? Eh sì, perché la musica commerciale, guai, non si può assolutamente... Te lo ricordi? Allora come puoi dire che non c'eri quando Madonna faceva Like a Virgin? Mi sono tradito allora. C'era. Io ho sempre il caso che prendo degli ABBA. Sì. Io negli anni 70 ero piccolo, ero alle medie, e amavo gli ABBA oltre ogni cosa al mondo. Ed ero picchiato, ero veramente picchiato da chi invece ascoltava i Deep Purple, e perché ero stupido, ascoltavo gli ABBA. Oggi gli stessi che ascoltavano i Deep Purple impazziscono quando vanno a vedere Mamma Mia o Priscilla e gli ABBA, questi trash, eccetera. Quindi, come vedi, il pop alla fine vince, perché alla fine naturalmente scopri che è più bello, è più luminoso, più divertente. Certo, poi Deep Purple, tu dici, erano più profondi, sì, perché ci mettevano più cura, sì. Era, possiamo usare una parola che non mi piace molto, ma era qualità. Ecco, quello contraddistingue. Il rock spesso viene fatto combaciare con la qualità. Beh, posso dire una... Ah, ok, va bene. Però posso dire Michael Jackson, per esempio, sì, che possiamo definire pop comunque. Ma lui era il re del pop. Però, esatto, sì, è vero. La qualità però è spinta al massimo, anche in un genere così. Ma perché lì è la qualità... Perché dietro c'era lui che era un perfezionista, c'era Quincy Jones che era un signor musicista, bisogna inchinarsi quando passa ogni volta per strada. Per cui, capisci, è un altro livello. Poi c'era il pop, quello fatto con quattro soldi, veramente di consumo, che durava una stagione, ma non cambia niente ancora una volta col passato. Cioè Bach lavorava con lo stesso ritmo, cioè Bach doveva comporre una sonata a settimana che poi veniva dimenticata, non c'era questo culto. Noi oggi siamo lì che il vinile del 1967 lo pulisco, lo conservo, guarda questo bootleg, cioè c'è un'ansia totale di rendere colta, di rendere artistica qualunque espressione di questi mostri del rock, naturalmente, che va anche bene, però forse esageriamo, capisci? Il pop è più leggero, lascia andare, il 45 giri era pop, adesso c'è il file MP3 di bassa qualità a 128 e poi vedi questi ragazzi per strada con queste cuffione, sì, è presente, sì, che poi ascoltano gli MP3, quindi tanto vale, con una qualità bassissima, ma ascoltateli con gli auricolari, sì, ecco. Certo. Per cui è questo forse l'unico discrimine tra rock e pop, sì, era la cura che metteva in più il rock, perché creava comunque dei veri. E quando è nato tutto questo? Negli anni 50, perché dopo la guerra nasce la musica veramente pop, con Elvis è veramente l'inizio. Vedo però che tu mi hai preparato una cosa di Sam Cooke, che va bene lo stesso, e si chiama Change Is Gonna Come. Quante cose ti vengono, a me niente perché non c'erano negli anni 50, però diciamo abbiamo dei riferimenti cinematografici di un mondo felice, ecco, questo è pop, cioè avere una vita di un certo tipo in cui tu vivi come se fossi in un film, perché questa sembra una colonna sonora, no? di una serata in cui tu esci, trovi l'amore della tua vita e allora siete lì nella vostra macchina sotto il chiaro di luna, le luci della città lontana. Quanti film hai visto queste cose? Certo. Ecco. Per cui questo qui era il pop degli anni 50, comunque c'era anche Elvis, ti ricordo che era, sì, quello che ha rivoluzionato tutto. Tu poi la lista me l'ha preparata Stefano Gallarini, non io, guarda, te l'hanno preparata gli autori, ecco, la colpa, no, ma va benissimo. Hai messo Otis Redding e Marvin, sì, Gaye, perfetto, perché sono due esponenti di cosa? Del mondo nero. E cosa c'è di più pop del mondo nero? Perché appunto dovendo vivere nascosti, dovendo vivere in secondo piano rispetto ai bianchi che avevano il potere in mano, naturalmente riuscivano a dare di più, riuscivano a dare qualcosa che gli altri non sentivano. Cioè la musica classica non appartiene al mondo nero, c'è stato soltanto un musicista nero nel Settecento, però naturalizzato francese, prima o poi verrà riscoperto, aveva un nome molto difficile, adesso non me lo ricordo, quindi non appartiene proprio di natura a loro, però hanno creato delle cose che sono altrettanto grandiose, altrettanto belle, tipo appunto Otis Redding, My Girl. Allora, intanto ci sono aggiornamenti sul traffico adesso, poi continuiamo a parlare di musica, perché poi dobbiamo congedarci purtroppo, lo so che ti dispiace, anche a me dispiace, però abbiamo tante cose ancora da dire, aggiornamenti sul traffico. Risponde Marco Ugo, che era l'autore dei messaggi, che dice: mi ero firmato in un altro messaggio, non l'avete visto. Comunque non si attaccano gli ascoltatori, ma nessuno ha attaccato gli ascoltatori. Abbiamo semplicemente risposto a un messaggio che comunque attaccava gli ospiti, quindi credo che valga la stessa cosa. Appunto, non è come in un negozio dove il cliente ha sempre ragione. Assolutamente, l'ascoltatore non ha sempre ragione. Cioè, poi non c'è una ragione, un torto, però c'è un dibattito, mi sembra giusto. È legittima difesa, diciamo, dai. Allora, andiamo avanti con la musica. Beh, guarda, brevemente, forse sì, il pezzo più pop che esista, sì, nel vero senso della cultura pop, è Imagine di John Lennon. perché oltre ad avere un atteggiamento, cioè proprio una struttura pop musicale, richiama tutto quel mondo di politica, perché la politica pop era quella, sì. Il pacifismo, le manifestazioni contro la guerra, quindi quello per me è il vertice in cui il pop si diventa estroverso, cioè raccoglie, riunisce tutti. Siamo 20 anni dopo, negli anni 90, invece il pop fa la strada contraria. Cioè il pop è quello dei ragazzi chiusi nella cameretta con la chitarra che suonano da soli, che poi sono diventati quelli chiusi in cameretta col computer da soli. Ecco, per cui i Nirvana erano l'espressione massima del pop, così un po' triste, adolescenziale. Tu non vedi Nadia Zammitti? Sta ballando? Sì, sta muovendo la testa, sembra la Carrà dei tempi nostri. Ecco, come siamo vecchi, vedi lei balla in Nirvana, noi pensiamo alla Dovevo Carrà. Far capire un'icona che sbattesse la testa in quel modo, hai capito? Ho avuto in mente la Carrà. Sì, ma c'erano anche i cagnolini, quelli della macchina. Vabbè, ma non così velocemente, quelli erano lenti. Passiamo agli anni 2000 invece. Ecco, sì. Gli anni 2000 il pop è quello dell'elettronica, è quello dell'elettronica, per cui un disco della Pausini è assolutamente simile a un disco di Céline Dion, non c'è differenza, perché solo la lingua in cui cantano, per il resto sono gli stessi ululati e con ululati ho detto tutto, dai. Anche se i tuoi autori hanno segnalato i Green Day come American Idiot. Qui c'è un riferimento anche politico. Ecco, naturalmente, perché il pop non è una cosa che usa nella dispensa, perché tu vedi la scatola di zuppa piuttosto che la scatola di detersivo, è un modo di vedere il mondo, quindi soprattutto la politica. Il idiota politico era Bush in quel caso. Esatto, sì. Poi la scelta padre o figlio non cambiava molto. Allora Tommaso, io ti devo salutare, ti ringrazio tantissimo. Ma tu uscirai tra poco con un romanzo, posso dirlo? Sì, tristissimo. Ecco, è pop secondo te il tuo nuovo romanzo? Assolutamente, sì. Molto, molto pop, molto pop, perché è così, è triste, adolescenziale, e lui appunto ascolta musica pop, è vero, sì. Allora poi ci sarà la presentazione, quindi poi lo leggeremo, lo vedremo. Possiamo già sapere il titolo? È ancora un mistero? Mu. Si chiama Mu. Ecco, non c'entra niente con le mucche, ve lo dico subito. No, ma non cominciare. Spieghiamolo che è un... Mu è un ideogramma giapponese che significa vuoto, risaia in fiamme, Mu. E da lì parte tutto. Grazie Tommaso Labranca. Grazie a te. Grazie davvero. Anche voi continuate, se volete, anche a scrivere. Tanto Tommaso i messaggi li legge, poi magari vi risponde attraverso Facebook. È il momento invece della nostra Francesca Dragotto, perché lei, come avevo annunciato, ha provato ad analizzare i discorsi di Obama. Senti chi parla. Francesca Dragotto, ciao, buona domenica. Buongiorno e buona domenica. Allora, c'è una voce che abbiamo sentito tutti, gli americani sicuramente l'hanno ascoltato con molta attenzione, è Barack Obama. It was a creed written into the founding documents that declared the destiny of a nation. Yes, we can. It was whispered by slaves and abolitionists as they blazed a trail towards freedom through the darkest of nights. Yes, we can. Siamo tornati indietro di 4 anni, questo era il primo discorso di Barack Obama, ma dobbiamo partire da lì, giusto Francesca? Giusto, partiamo dalla vittoria alle primarie che poi lo avrebbero consacrato presidente nel novembre del 2008. Credo che non sia necessario conoscere l'inglese per poter apprezzare l'impatto comunicativo di questo discorso. Si rimane affascinati dalla cadenza ritmica con cui le diverse parti delle frasi, le diverse frasi vengono articolate fino a culminare in quella ripetizione, una vera e propria figura retorica che conosciamo ormai in tutto il mondo e che anche dai politici nostrani è stata recuperata, ovvero yes we can. Un vero e proprio credo, il credo di una nazione che a dispetto delle tante differenze si riconosce proprio nei valori che fanno parte di quel credo. Tutto il discorso somiglia ad una sorta di declinazione, ad uno snocciolare dei grani di un rosario profondamente intriso di religiosità, un rosario che è fatto di ciò di cui è fatta l'America. Barack Obama non manca di citare tutte quante le componenti etnografiche che hanno fatto grande l'America, parte dai fondatori, passa agli schiavi e agli abolizionisti, agli immigranti e ai pionieri, ai lavoratori, alle donne, a un presidente che ha esteso i confini dello Stato andando a conquistare la Luna, parla di Nixon anche senza citarlo esplicitamente, fino a chiudere con il re con l'iniziale maiuscola, ovvero quel Martin Luther King che fa da trama invisibile a questo discorso, un discorso che ricalca i discorsi per i diritti umani del 63 di Luther King e rispetto ai quali il discorso di Obama, questo discorso di Obama somiglia ad una sorta di variazione, di variazio sul tema, visto che parliamo di retorica. Sempre rimanendo in ambito retorico, e poi passiamo al secondo audio, dobbiamo evidenziare la presenza di una figura retorica che caratterizzerà anche tutti i discorsi che sentiremo, ovvero la figura tecnicamente della ripetizione. In questo caso parlerei dell'epifora. L'epifora, ovvero quando un segmento viene ripetuto alla fine, fino a far culminare tutto il discorso verso quel segmento. Quindi non solo la ripetizione che genera quella cantilena che facilita la memorizzazione, ma la ripetizione è collocata alla fine. Dico questo perché invece nel discorso che sentiremo dopo abbiamo quella opposta di ripetizione, quella all'inizio, ovvero l'anafora, ma ne riparleremo. It's the answer told by lines that stretched around schools and churches. In numbers this nation has never seen, by people who waited 3 hours and 4 hours, many for the first time in their lives, because they believed that this time must be different. Questo discorso è quello dell'elezione del 2008, anche qui si fa leva su degli elementi fondamentali per la coscienza collettiva americana. Prima di tutto, all things are possible, si può fare tutto, e questa è anche una risposta allo yes we can del primo discorso, quello dell'incoronazione alle primarie. A chi si meravigliava dei sogni dei nostri fondatori fossero ancora, del fatto che i sogni dei nostri fondatori fossero ancora vivi al nostro tempo, a tutti costoro noi questa notte stiamo dando la risposta. E quindi ritorniamo all'anafora che avevo citato poco fa, perché nella parte che abbiamo sentito e nei periodi successivi ritorna un it's the answer, e questa è la risposta seguita dai contenuti costitutivi di questa risposta. Tra tutte mi interessa in particolar modo la seconda risposta che è la risposta dei giovani e degli anziani, dei ricchi e dei poveri, dei democratici e dei repubblicani, dei bianchi, dei neri, dei latini, degli asiatici, dei nativi americani, dei gay, dei disabili e dei non disabili, e così via, fino ad elencare di nuovo, come in un catalogo etnografico, tutte quante le componenti della variegata nazione americana. Una nazione che tradisce il senso etimologico del termine, perché nazione ha a che fare con il verbo nascere. In questo caso, affinché ci si senta parte della nazione americana, non occorre essere nati negli Stati Uniti, non occorre essere americani di nascita, occorre essere americani d'elezione, per scelta, per volontà, per condivisione di quel credo che accompagnerà tutta quanta la politica obamiana. Andiamo avanti. We've got to name this condition that he's going through. I think it's called Romnesia. Ecco, qui abbiamo quasi un Obama cabarettistico. Beh, abbiamo anche un Obama che sfrutta i meccanismi della manipolazione linguistica, riuscendo a condensare in un neologismo creato apparentemente ad hoc, ma in realtà ben studiato, gli effetti che tante e tante frasi avrebbero potuto più difficilmente ottenere. Mi riferisco appunto a questo dionimico Romnesia, in cui abbiamo l'amnesia di Romney, quindi abbiamo quelle dimenticanze che il neo-presidente imputa all'ex, ormai ex avversario, legate alle contraddizioni che sono emerse proprio nel corso della campagna elettorale. La cosa rilevante da un punto di vista linguistico è il fatto che il neologismo sia stato subito registrato dai dizionari più attenti all'uso, quelli attenti a cogliere le tendenze e le dinamiche della lingua. Su un dizionario come Urban Dictionary ne vengono addirittura offerte ed esemplificate diverse definizioni. Di sicuro è una perdita di memoria di comodo, ma è interessante che Obama citi proprio il termine patologia, il che non può non farci pensare all'uso, al riferimento alla malattia che anche recentemente hanno fatto diversi politici nostrani, un uso completamente differente. Basti pensare, ne abbiamo parlato in una precedente puntata, al cancro della presidente Polverini. Quindi un uso completamente diverso, defetto, un qualcosa che permette di dire molto di più che tante parole. Tonight in this election, you, The American people reminded us that while our road has been hard, while our journey has been long, we have picked ourselves up. We have fought our way back. And we know in our hearts that for the United States of America, the best is yet to come. E per gli Stati Uniti d'America il meglio deve ancora venire. The best is yet to come, esattamente come Yes We Can. Da notare le ripetizioni fatte di termini monosillabici, quindi sono degli slogan che risuonano come un rullo di tamburi proprio per via della scelta di termini che sono costituiti di una sola sillaba, cosa che peraltro è facilitata dalla struttura stessa dell'inglese. Mi soffermo poco su questo discorso, che è il culmine di una campagna da 6 milioni di dollari, in fin dei conti, al di là delle apparenze, appare anche qui il gioco di parole, non è poi così diverso rispetto ai discorsi che abbiamo precedentemente sentito. Sicuramente possiamo dire che in questo ancor più Obama è l'uomo della simploche, cioè la simploche che cos'è? È quella figura retorica che si ottiene mettendo insieme l'anafora e l'epifora. Quindi, come dire, condensa tutta quanta la retorica che ha caratterizzato i suoi discorsi, ricucendo quei motivi ricorrenti che sono una costante dei suoi discorsi ideologici. Discorsi ideologici però che vanno sempre in una logica inclusiva e mai esclusiva. Non denigra l'avversario, ma anzi non vede l'ora di sedersi con l'avversario per discutere insieme a lui di come migliorare la situazione americana. Un discorso in cui si alternano costruzioni molto lineari a costruzioni più complesse che richiedono l'uso anche di periodi subordinati. Anche il lessico è piano, quindi è un lessico abbastanza comune, ma qua e là non si rinuncia ad ammiccare registri più alti della lingua. Quindi sì, c'è il tono dello slogan, ma non è uno slogan non è sicuramente uno slogan povero, è una retorica ben studiata che costantemente tende a ripercorrere la storia degli Stati Uniti e a appunto, come dicevo prima, già l'ho detto due volte, quindi significa che è una vera e propria costante, si muove elencando tutte quante le diverse componenti sociali, perché deve includerle tutte quante per poter poi culminare nell'identificazione tra il popolo tutto, quindi chi ha messo la firma e chi non l'ha messa a favore appunto di Obama, chi ha votato, chi lo ha votato e chi non l'ha votato, appunto l'identificazione di tutti costoro con Obama stesso. Bene, non ci resta che fare davvero tanti auguri a Obama e ringraziarti. Ciao Francesca Dragotto, grazie. Grazie a voi, a presto. Tra poco giochiamo con Miró in 24 minuti, per voi il biglietto d'ingresso per la mostra Miró Poesia e Luce a Genova e anche il catalogo bellissimo della mostra, ma prima volevo ringraziarvi per i tanti messaggi che avete scritto, e così abbiamo cercato di mettere un po' di pepe, di alimentare la discussione, e vi ringrazio veramente tanto. E qualcuno ha definito anche Radio 24 pop perché Tina dice unisce tutto ciò che insomma è condiviso e anche persone diverse, molto diverse, ascoltano questa radio. Grazie Tina, e adesso è il momento del nostro gastronauta. Crema Novi, un'autentica specialità, con il 45% di superbe nocciole delle nostre colline. Vi presenta... Il gastronauta. Ricordo gli anni 80, Davide Paolini, ciao, buona domenica. Ciao, buongiorno. In cui era pop la nouvelle cuisine, dove non mangiavi niente e spendevi tanto. Sì, no, questa era veramente così l'immagine della nouvelle cuisine. Tra l'altro una sera io ero in un ristorante in Piemonte e avevo vicino un tavolo molto rumoroso di tante persone, sì. E c'era una signora che dice, ah, Gualtiero Marchesi, dice, si mangiano, poi quando si esce bisogna andare a mangiare una pizza e poi è tutto sanguinolente. Allora io gli chiesi, scusi signore, ma lei quante volte ha mangiato da Gualtiero Marchesi? Mai. Dice, però si dice che sia così. Ecco, ma vedi, vero, c'è ad esempio Stefano che dice, per me pop è tutto quello che si può criticare senza avere nessuna competenza. Questo è vero, ma sai, ora c'è una cucina pop chiamata proprio così, cioè esiste addirittura di Davide Oldani. Ah, Davide Oldani, sì, definisce la sua cucina pop sì. da popolare, perché appunto lui anni fa ha iniziato questa questa strada di, diciamo, costi molto limitati, usando materiale, materie prime, diciamo quelle che di solito sono eccellenti ma vengono poco consumate, per cui costano poco, quindi l'interiora, tutta una serie di frutta e verdura. E quindi cucina pop nel senso di popolare, ma sai, si sta tornando alla cucina popolare, nel senso che siamo costretti a tornare alla cucina, quella che viene chiamata popolare, nel senso quella diciamo che si può comprare al mercato. La cucina di mercato, tutto sommato, a meno che uno non vada a comprare il branzino, il salmone o d'altro, è la cucina popolare. Sai, cucina popolare significa tutto, significa niente, nel senso che ogni regione, anzi ogni comune, io lo chiamo l'Italia il paese delle cucine, dei campanili, perché ognuno ha delle proprie tradizioni, e sono quelle tradizioni appunto che si fanno con quello che si trova vicino al mercato. Cioè, un tempo i supermercati o anche i trasporti erano molto più rari, quindi arrivavano molte meno merci. Oggi arriva di tutto, specialmente da tutto il mondo. Pensare allo zenzero. No, certo, basta pensare anche invece per il contrario, di come tu dicevi, ogni cucina per ogni campanile, no? È vero, se pensi al ripieno dei ravioli, fai 2 chilometri e cambia, no? Quindi no, ce ne sono... non solo, guarda, Ugo Tognazzi, che è stato il mio primo direttore, che quando scrivevo di cibo, ho cominciato a scrivere di cibo sulla rivista Nuova Cucina, un giorno mi commissionò un reportage straordinario. Mi disse: parti dalla Sicilia, arriva in Piemonte e fai il percorso del ripieno. Sì, vedrai, ecco, che parti, vedi, da un qualcosa di povero e arrivi alla carne in Piemonte. Quindi diciamo che è un viaggio attraverso la storia economica dell'Italia, ed è vero, perché ad esempio se tu parti dalla Sicilia o dal sud c'è sempre formaggio e erbe. Poi piano piano sali, diventa sempre più ricca, in Emilia Romagna arrivi al tortellino, dove c'è anche la mortadella, quindi ci sono anche dei salumi, c'è anche della carne di maiale. Poi arrivi in Piemonte, dove c'è ad esempio il ripieno di carne, ma il ripieno di carne è fatto dal brasato. L'agnolotto, fra l'altro, ha 3 carni diverse addirittura. Appunto, quindi, appunto. Sì. Non solo, ma in Emilia ad esempio ci sono, tra Parma e tutta quella zona lì, ci sono gli agnolini in 3 brodi. Quindi addirittura ricchissimo, perché appunto devi fare 3 brodi con 3 carni diverse. È la storia dell'Italia, che è una storia popolare, perché per molti di queste aree, di questi territori, popolare è quello che trovi nel territorio, della tradizione del territorio. Senti, anche il vino, anche il vino ormai è pop, secondo te? Ma ci sono certi vini che possono, a me mi verrebbe da definire pop quello che è frizzante, quello che si stappa. Cioè, che secondo me, ecco, per pop io intendo questo, pensando un po' alla musica, mi viene in mente questo. Io potrei definire un vino pop il Lambrusco, per esempio. Il Lambrusco mi dà allegria, mi dà tutta una serie di cose, di ritmi, che potrebbero essere definiti pop. Ma forse anche la pizza è pop. Potrei definire anche la pizza pop, perché è popolare la pizza, quindi anche la pizza è pop. Se fai pizza e Lambrusco, secondo me viene fuori un bellissimo piatto pop. Allora oggi pranzeremo così, potrebbe essere un'idea. Grazie Davide! Ciao, ciao, grazie a tutti allora! Davvero, buona domenica, grazie! Ciao.